Arma G, Guy Debord, 2006-2016. Lo spettacolo sta per cominciare, se lo spettacolo sta per cominciare, se lo spettacolo sta per cominciare, se lo spettacolo sta per cominciare, se spettacolo è già cominciato, tutto ciò che era realmente vissuto si è allontanato in una rappresentazione. Se tiro lo sciacquone, cambio direzione. Se basta con i culi in televisione, questa è la cultura della nostra nazione. Se i culi di plastica che fa la ginnastica, contro tutto questo la soluzione è drastica. Giro disgustato per la mia città, guardo incazzato la mia triste civiltà, che non si manifesta nella pubblicità. Io vomito in faccia all'autorità. Qui sta per partire un colpo di stato, premo il bottone del primo attentato. Termino in un colpo ogni trasmissione, e con loro anche questa repressione. La gente ha paura di uscire per la strada, perché ha visto al TG che il demonio veste Prada. Senti un po' se questa merda t'aggrada, apro mai buongiorno con la mia spada. Sei stato d'allerta per la polizia, gas nelle strade, scontri nella via. Vogliono fermarmi con i loro beats, ma io urlo ancora mentre sale il beat. Sì, incatenati a questa produzione, vivono la vita senza una ragione, lavorano tutti i giorni dentro una prigione, senza porsi mai nemmeno una questione. No, vivo nella nuova caverna platonica, al posto delle statue un po' di elettronica. Immagini precotte come al centro commerciale, la merda che si guarda a me sembra tutto uguale. Perché la televisione non è la mia visione, la televisione non è la mia visione, la televisione non è la mia visione. Vaffanculo tu che guardi, coglione, se la televisione non è la mia visione, perché è una completa lobotomizzazione perpetuata in tutta la nazione. Vaffanculo tu che guardi, coglione, se d'allerta per la polizia, caos nelle strade, scontri nella via. Vogliono censurarmi con un altro beat, ma io rimo ancora mentre riparte il beat. Sì, smettila di credere a quelle cazzate, alla vita rate, ai miti dell'estate. Spengi disgustato il tuo tamburlano, per prezzo te ne stavi seduto su un divano. Poi finalmente hai capito, dalla caverna catodica te ne sei uscito, capito dalla tua stessa vita, trascinato in tutta fretta verso l'uscita. Ora la televisione non è più la tua visione, staccati ora dall'omologazione, fatti una rivolta in tutta la nazione. Svegliati ora tu che guardi, coglione, se la televisione non è la mia visione, la televisione non è la mia visione, la televisione non è la mia visione. Svegliati ora, spettatore, coglione.